Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Abbiamo il grande onore di avere ai nostri microfoni DJ Fede. Ciao, ciao. Come stai? Ciao, molto bene, grazie mille. Suono sporco è una trilogia che vede la luce nel 2022 e a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro escono tutti e tre i volumi, l'ultimo uscito poche settimane fa. Vuoi raccontare ai nostri ascoltatori qual è l'idea dietro questa raccolta? In realtà, diciamo, non è nata come una trilogia. Diciamo che io ho sempre fatto principalmente come primo lavoro il DJ e come secondo lavoro il produttore. Ovviamente durante la pandemia mi sono molto più dedicato alla parte produttiva. Questo è successo perché ovviamente non c'era la possibilità di suonare. Per cui ho fatto una grossa ricerca che ha fatto sì che nascesse prima Steel from the Nighties, che era, diciamo, l'album precedente. Però ho prodotto una marea di materiale che poi man mano ho selezionato e ho cercato di mettere assieme. Una prima parte di cui suono sporco arrivano già da quel periodo lì, quindi diciamo dal 2020. Poi, dopo l'uscita di Tra di Nighties, ho fatto questo primo brano con il turco che si chiama appunto Suono Sporco, da lì l'idea di chiamare così l'album, ma nel frattempo ho continuato a produrre tantissimi brani, quindi abbiamo cominciato a chiudere i primi brani e abbiamo fatto Suono Sporco 1 e questa è la prima parte. Poi ciao, man mano che è uscito Suono Sporco 1, abbiamo fatto la promozione, è uscito anche 45 giri di Suono Sporco del pezzo con Claver Gold e Inoki, sono uscite un po' di cose, sono andato avanti, mi sono ritrovato con altri pezzi pronti. Abbiamo detto che confezioniamo Suono Sporco 2 perché tutto ha avuto inizio assieme. Nel frattempo hanno cominciato ad arrivare altri brani, beat che avevo già distribuito ad altri rapper. Nell'insieme alla fine è venuto fuori un lavoro molto grosso e abbiamo capito di doverlo poi dividere non solo in due volumi ma in tre, ma proprio per una questione di spazi tecnici, diciamo, è stata tutta una cosa in divenire, non c'è stata un'idea primaria e principale di fare questa trilogia, lo è diventato in automatico perché l'abbiamo poi dovuto dividere in tre momenti diversi. Mi rendo conto che è abbastanza inusuale far uscire tre volumi nel giro di un anno e cinque mesi, però in realtà, essendo concatenati l'uno con l'altro, tutto questo ha un senso, c'è un suono che tiene, fa da collante a tutti i progetti, dal pezzo più underground al pezzo magari un po' più orecchiabile. Tutto questo è entrato sotto il cappello di questa idea di suono sporco. Volevo chiederti, dato che comunque sei all'attivo come DJ dai primi anni 90, com'è cambiato, se lo è, il tuo approccio alla musica in questi 30 anni di carriera? Il mio approccio direi che non è cambiato, è solo leggermente mutato rispetto al fatto che è mutata la musica e ne è mutata la fruizione. Prima si ragionava ad ascoltare un album, adesso ascoltando la musica magari attraverso le piattaforme digitali tendi ad ascoltare una rotazione di musica, per cui difficilmente ascolti un album di seguito. Invece prima eri più immerso proprio all'interno di un disco, quindi magari anche certe idee, il concept album eccetera, avevano un significato e anche un impatto diverso sul pubblico, mentre adesso con questo tipo di fruizione le cose sono un po' cambiate. Soprattutto nel mondo del rap esiste il concetto della posse cut, dove magari ci sono 4-5 rapper che fanno una strofa a testa, per cui magari vengono fuori dei brani da 8 minuti. Chiaro che vanno assolutamente in controtendenza rispetto a quello che è un po' la fruizione momentanea della musica. Gue, secondo me, ha aiutato molto a spingere il rap nei club e il fatto che tu abbia questa versatilità nel fare dei dischi magari di pop più puro come Suono Sporco, visto che lavori anche ad Ibiza, come te la vivi tu questa cosa del portare veramente il rap in giro, il rap, l'hip hop, la musica black? Credo che sia stata la mia fortuna, è stata quella di nascere come DJ prima di tutto, per cui nasco prima in discoteca, dopo ho scoperto il rap, mi ci sono appassionato. Diciamo ho cominciato a seguire questa cultura, perché di cultura si tratta, non solo di genere musicale. Quindi questo fa sì che io parta da un presupposto e da un punto di vista magari diverso da chi si è approcciato direttamente alla musica rap, perché ho una visione un po' più aperta. Poi c'è stato all'inizio della mia carriera un errore che secondo il mio avviso hanno commesso tantissimi DJ in Italia, cioè pensare che bisognasse suonare solo un genere musicale, che ognuno dovesse appartenere un po' quasi a tenuta stagna di un certo circuito e basta. Poi a forza di girare, andando tanto a Londra, andando a New York, e sono entrato nell'ordine di idee del fatto che uno deve suonare delle robe che gli piacciono, delle robe fighe, indipendentemente dal genere musicale, e quindi deve trovare anche il modo giusto per mischiarle. E secondo me è bello, perché in questo momento l'hip hop sta vivendo questo insieme di tante cose, di tanti sottogeneri diversi, tanti artisti che nascono, è solo che sembra quasi che ognuno sia incasellato a quello, e portare questo respiro, questa possibilità di fare tante cose, secondo me è bello. Sicuramente le nuove generazioni partono già un po' più con questa visione, credo perché sono figli di un momento storico diverso rispetto al mio, quindi credo che questa cosa sia assolutissimamente un vantaggio. Detto questo, io ho avuto la fortuna di non rimanere recluso, tra virgolette, solo nei club italiani, e questo mi ha aiutato poi ad arrivare al tipo di produttore che sono e ovviamente al DJ che sono, ecco. Perfetto, grazie mille. Arrivo all'ultima domanda. Volevo chiederti se hai in programma di portare in live Suono Sporco. No, perché come per tutti i miei dischi, cioè i dischi da produttore, la questione è veramente, veramente molto complicata, perché io ho sempre rapper da tutta Italia nei dischi. Avendo questo tipo di costruzione del disco diventa impossibile portarlo dal vivo. Nel frattempo, diciamo, tra Suono Sporco 1 e Suono Sporco 2, ho avuto il tempo di produrre anche un album con Daffa dei Lyricals. Invece con lui stiamo portando in giro il nostro progetto, perché lì è molto più facile, perché con lui abbiamo costruito un piccolo live dove ci sono le cose nostre nuove, io suono un po' di DJ set di cose mie più vecchie e lui fa anche dei pezzi vecchi dei Lyricals, e questo ci ha, diciamo, sostanzialmente dato la possibilità di costruire un live, però non è un live mio vero e proprio, ma è un live di tutti e due uniti, e quindi stiamo un po' girando e andremo avanti portando avanti questo progetto. Perfetto, passerete anche per Bologna? Speriamo. No, me lo auguro, spero di sì, assolutamente. Ringraziamo DJ Fede per la sua bellissima chiacchierata che ha fatto con noi e ti aspettiamo a Bologna allora, grazie mille. Grazie mille, grazie a voi, grazie per la chiacchierata e ci vediamo presto dal vivo. A presto, ciao.